Che la dimentica, tu la dimentica, una voce patetica, a casa la solita replica, c'è mia nonna che predica, potevi darti alla lirica, o forse meglio all'ilica. Io non parlo della gente in clinica, manco mai ho fatto un'impresa biblica. Mi stai sul cazzo, sei tu che fai la mimica. Vorresti il mio rap, ma va lento come chi ha lasciato. Non è vero che sei un rap, tu sei falso come tutti quanti. Il rap vuoi la figa, come tutti i rap, vuoi i soldi. Come tutti quanti, il rap vuoi la figa, come tutti i rap vuoi i soldi, come tutti i rap. Tu nei club non fai la fila, io nei club invece mi faccio la fila. La figlia, la fila, la figlia, la fila. Ma ti tuffa tua sorella che profuma di vaniglia. Oh, baby, questa era pesante, eh. Tocca a te, tocca a te, tocca a te, te, te, te. Vorrebbe uomo per fargli le tipa al ballo. Ballo ma sballo un danno, uno stallone da scatto. Vorrebbe un chiricchetto da chiesa o un santo. Finiamola con le polemiche in famiglia. Vorrebbero un bel macio che gli assomiglia. La mamma mi vuole croce rossina o bellina. Darmi alla danza classica, perfetta ballerina. Vorrebbero una figlia modella più bella. Besa di silicone a casa oppure in passerella. Senza far la monella, non so se di Cenerentola. Questo è il primo scatto, pronti a darmi una sventola. Vogliono la principessina, così mi impicco. Vena di soldi, insieme a un marito ricco. Dicono che sei una scoppiata, come i tuoi amici. Non fare la rapper, ma che cazzo dici? Ma io faccio la rapper, voglio fare la rapper. A te non ti sta bene, tanto io faccio la rapper. La rapper, la rapper, scoppiata come i rapper. Anche se non vuoi, tanto io faccio la rapper. Ma io faccio la rapper, voglio fare la rapper. A te non ti sta bene, tanto io faccio la rapper. La rapper, la rapper, scoppiata come i rapper. Anche se non vuoi, tanto io faccio la rapper.